Agorà in onda. Agorà in onda. Rubrica di informazione giuridica e attualità. A cura dell'avvocato Marco Mampieri. Eccoci qua, allora, buongiorno Marco. Buongiorno Stefano. Oggi andiamo subito al nocciolo della questione. Oggi saremo io e te, quindi un saluto a tutti i nostri radioascoltatori e chi ci guarda in radiovisione sulle piattaforme Facebook e sulla piattaforma streaming del sito di Radio Onda Libera. A proposito, per farci guardare, a questo punto ti mando in onda te, tolgo la mia faccia che già sono 3 ore che stanno vedendo lì davanti, ma questo che sta a farlo? Diciamo, non ci guadagnano i nostri radioascoltatori in termini di qualità estetica. Allora, no, vabbè, però insomma, cambiamo un po' l'immagine e soprattutto cambiamo anno, perché siamo passati dal 2017 al 2018, però con una nuova legge di bilancio approvata proprio alla fine dell'anno. Alla fine del 2017, come si fa di solito, insomma, no? Si fa. Esatto, è la legge di bilancio, è la legge. Ecco, spieghiamo che cos'è la legge di bilancio. Partiamo da questo, poi dopo. Esatto, poi illustreremo piano piano alcune delle misure principali che possono riguardare i cittadini e le imprese, che quindi proprio lo facciamo a inizio anno, illustrando quindi quello che è la legge di bilancio, che è la legge che ogni anno il Parlamento approva. In questo caso parliamo della legge 205 del 2017, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 dicembre, quindi proprio alla fine dell'anno 2017, in cui il giorno dopo il Presidente della Camera della Repubblica ha sciolto le Camere e ha indetto le elezioni per il prossimo 4 marzo del 2018, quindi proprio l'ultimo atto con il quale il Parlamento della 17ª legislatura ha programmato quelle che sono le risorse, gli stanziamenti che lo Stato ha per gestire le risorse economiche della nostra nazione. Quindi la legge di bilancio è proprio una legge della Repubblica italiana con la quale viene approvato il bilancio dello Stato, quindi è un atto di programmazione in base al quale vengono appostate le cosiddette risorse e in funzione delle quali verrà fatta la programmazione dell'anno è anche pluriennale, quindi dell'anno in corso, quindi in questo caso il 2018 viene fatta proprio l'anno precedente per l'anno successivo, e sarà la programmazione sulla quale poi ci si atterrà durante tutto l'anno solare che è appena entrato. E quindi oggi con la prima puntata di Agorà in onda del nuovo anno parliamo proprio di queste misure, proprio per dare la possibilità ai radioascoltatori di capire quali sono le misure di cui potranno beneficiare per l'anno in corso, quindi quale migliore occasione che la prima puntata per snocciolare quindi nel dettaglio alcune di queste misure di cui parleremo più avanti. Anche perché è molto pregna, ci sono 1000 commi che modificano i vari articoli. Come al solito, quando si fa una cosa, ci sono ammessi commi proprio. Esatto, Stefano. Tu ne sai qualcosa? No? Anche per noi operatori del diritto non è facile districarsi. Ma una domanda tecnica, aspetta un attimo, visto che tu sei avvocato, dovresti saperlo, insomma, no? Io in parte lo so, ma non sono sicuro di ricordare bene. Quando si fa una legge, perché qualcuno così pensa, no? Se noi siamo in giro, no? Dice, ma se è vietato parcheggiare la macchina lì, perché quello mette la macchina lì? Se gli fanno la contravvenzione, può fare ricorso in base al comma? Perché quell'articolo di legge che ti vieta di... Oh, ho fatto un esempio, che ti vieta, oppure comunque fa in modo di far rispettare alcune regole, poi ha il comma 1, comma 2, comma 3... Ma man mano che facevano la legge ripensavano a quello che poteva succedere? No, è una modalità di... No, perché tanti hanno detto, se uno fa la legge, se la fa a sua immagine e somiglianza, così poi alla fine... Diciamo che in questo caso la tecnica normativa non ci aiuta, nel senso, una tecnica di redazione delle norme, perché le norme dovrebbero essere, come recitano anche i testi più importanti di diritto, generali e astratte, quindi dovrebbero avere una grande capacità di poter affrontare problemi ampi, non scendendo nettamente proprio nel dettaglio. Questa produzione normativa invece cerca proprio di entrare, anche se questa è una legge di natura giuridico-economica, di entrare nel dettaglio delle singole fattispecie. Purtroppo negli ultimi anni si utilizza questo modo di fare le leggi, soprattutto in particolare quelle di bilancio, con un unico articolo e migliaia di commi. In questo caso sono proprio 1181, per cui l'articolo è uno solo, ma poi si declinano in tutte queste articolati spezzettati in commi, che ci danno poi la difficoltà anche di comprendere, perché spesso sono, rimandi ad altre leggi. E qui ti faccio la domanda cattiva: secondo te va bene avere tutti questi commi? Nel senso che se io faccio una legge di bilancio, no? Ad esempio, parliamo delle bollette a 28 giorni, visto che le hanno inserite nella legge di bilancio. Questa non è proprio inserita nella legge di bilancio, è inserita nel collegato alla legge di bilancio. Poi ci sono i collegati, esatto. Cioè, tutte queste cose. Allora facciamo un altro esempio, che ne so, bonus casa. Il bonus casa era una misura di una legge precedente che viene confermata in questa legge di bilancio, per cui ti dicevo appunto, c'è un unico articolo con tanti commi che vanno a modificare leggi preesistenti, quindi vanno ad innestarsi su leggi che già esistono, e di conseguenza il comma non dice nell'articolo 1 lettera A della legge vado a modificare le seguenti parole, quindi diventa anche difficoltoso per gli interpreti, quindi anche per noi che ci troviamo quotidianamente ad affrontare queste problematiche, abbiamo difficoltà nel ricongiungere a un testo normativo chiaro, e qui nascono poi le diverse interpretazioni che danno luogo a quella, chiamiamolo così, spesso incertezza del diritto, che invece dovrebbe costituire invece una base seria per poter garantire un corretto andamento della società civile, no? Perché una società che ricorre spesso soltanto ai tribunali non è una società forse che funziona nel migliore dei modi. Certo. Soprattutto da avvocato forse lo dico contro gli interessi della categoria, ma non è proprio così, perché il lavoro qualitativo viene fatto soprattutto quando uno Stato afferma dei diritti e soprattutto è in grado poi di riconoscerli in maniera chiara, e quando ce n'è necessità effettivamente di ricorrere alla magistratura. Esistono oggi altre forme di tutela, tra virgolette, dei diritti che passano anche per per esempio la mediazione obbligatoria, con la quale uno può cercare di tutelare soprattutto in ambito civile alcuni aspetti che regolamentano la vita del quotidiano, no? Quindi anche in questo caso sono le persone che debbono impegnarsi per risolvere i propri problemi, non demandare sempre ad altri la risoluzione. No, magari demandare problemi agli altri e concludere, perché magari non finiscono mai, durano anni e anni e anni, esatto, la cosa finisce più. È un altro problema, giustamente, della durata eccessiva dei processi. Per cui ecco, questo è il contesto nel quale operiamo quotidianamente e sul quale poi noi dobbiamo far fronte. Ecco perché oggi la puntata vuole proprio far chiarezza, cioè vuole illustrare, ci proviamo ovviamente ad illustrare le tante misure che sono contenute, quindi ne faremo una piccola selezione, proprio perché potremo dare ai nostri radioascoltatori dei consigli o quantomeno avere la possibilità di conoscere quelle che sono le misure più importanti che li possono riguardare. L'esempio del bonus casa, però c'è anche un altro bonus in questa legge, l'assegno dei nati nel 2018, il bonus bebè, sì, ma solo per il primo anno. Cioè, cosa cambia? È uguale a quello passato oppure... No, non è uguale a quello passato. Per quest'anno la legge di stabilità ha previsto che gli 80 euro al mese, perché di questo parliamo come contributo, è una tantum riferito all'anno solare 2018, quindi per quest'anno i nati nell'anno solare 2018 potranno beneficiare di questa misura una tantum e i genitori dovranno avere un reddito ISEE sotto i 25.000 euro, quindi è una misura che negli anni passati invece prevedeva più annualità, e per la legge di bilancio del 2017 per l'anno 2018 invece ha stabilito che sia soltanto per questo anno, quindi non è stato fatto una programmazione più ampia rispetto a quello che poteva essere in passato il bonus bebè. Lo so, sembra quasi una cosa scontata, però io voglio sapere da te ISEE cosa vuol dire, perché quando si dice sotto i 25.000 euro uno pensa vabbè, io guadagno poco. No, non è la situazione reddituale, è l'indicatore diciamo, l'ISEE identifica l'indicatore, la situazione economica equivalente, si dice, quindi da questo punto di vista vanno ad essere inseriti come parametri reddituali una serie di voci che debbono essere inserite, inserite tutte insieme. È stato riformato ultimamente nel 2013, esiste un DPCM che disciplina come deve essere fatto, quindi da questo punto di vista i soggetti abilitati sono i CAF o l'INPS che debbono redigere questo ISEE, il modello adesso più puntuale rispetto, perché prevede anche le giacenze medie dei conti correnti, quindi le proprietà, i redditi, quindi vanno messi insieme in base a una percentuale, un calcolo, vengono poi valutati per far uscire questo indice sintetico con il quale poi viene identificata la situazione economica equivalente del nucleo familiare o della persona. Bene, allora, e abbiamo parlato del bonus bebè, questa è una delle tanti argomenti che riguardano la legge di bilancio. C'è anche giovani e lavoro, vogliamo parlare anche di questa? Esatto. Metà contributi per 3 anni sui neoassunti under 35. Nei commi da 1. Da 100 a 115, ecco. Quindi nello specifico in questi 1181 commi, ecco, dal comma 100 al 115 si parla di contributi per i neoassunti under 35, quindi esistono anche in questa manovra di stabilità, in legge di stabilità, delle agevolazioni per chi assume dei giovani che non abbiano compiuto il 35esimo anno di età. Questa misura varrà anche per il 2019 e il 2020, soltanto che l'età anagrafica da 35 passerà a 30, quindi chi trasforma un contratto per esempio a tempo determinato a un contratto a tempo indeterminato, cosiddetto a tutele crescenti, il cosiddetto Job Act, nell'anno 2018 per persone che non hanno compiuto il 35esimo anno di età potrà beneficiare per un triennio delle agevolazioni INPS, non INAIL, perché i contributi INAIL invece dovranno essere versati, quindi uno sgravio del 50% per i primi 3 anni di contratto con un tetto massimo di 3.000 euro annui. Quindi ci sarà un'agevolazione per tutte le imprese che vorranno investire in risorse umane, in capitale umano, per poter agevolare in qualche modo l'assunzione di ragazzi under 35. Quindi è una misura concreta che può essere utilizzata dalle imprese per implementare il proprio business e di conseguenza dare la possibilità ai ragazzi di entrare nel mondo del lavoro uscendo, diciamo così, dalle forche del contratto a tempo determinato che ha una durata massima di 36 mesi che è stata confermata anche nella legge di stabilità, quindi non possono esserci contratti rinnovati per un periodo superiore ai 36 mesi, anche perché su questo l'Unione Europea ci ha già richiamato più volte. Visto che parliamo di imprese, visto che i giovani devono essere comunque presi da imprese e cose varie, parliamo anche del nuovo calendario del fisco a questo punto, perché vanno a braccetto o forse le due cose, sì, no? Diciamo, il calendario fiscale viene ridisegnato. Esatto, questo magari la misura più importante è per gli F20, il 7.30 precompilato, che avrà la scadenza il 23 di luglio, quindi entro quella data ci sarà il calendario fiscale, è stato rivisto per questa particolare tipologia, quindi in questo caso per i cittadini. Per le imprese ovviamente ci sono altri e tanti adempimenti fiscali che si susseguono durante l'anno, ai quali diciamo le stesse imprese sono abituate, perché c'è l'IVA trimestrale, le varie rendicontazioni, quindi da questo punto di vista è stato fatto un calendario più puntuale su quelle che sono le scadenze tributarie. E ecco, per quanto riguarda i cittadini, il 23 luglio scade il termine per la dichiarazione del 7.30 precompilato. E fattura in due tempi? Sì, perché dal 1 gennaio... Mi fa ridere anche questa, perché... Due tempi era il motorino una volta. Esatto, benzina e gasolio, torniamo lì, insomma. nella lotta al contrasto all'evasione fiscale, da qualche anno è stata introdotta la fatturazione elettronica per quanto riguarda le fatture verso la pubblica amministrazione. Questa misura entrerà in vigore anche per le imprese tra privati, quindi non soltanto business to business, ma anche business to citizen, ma andrà in vigore però dall'anno 2019, quindi dal prossimo anno ci sarà l'obbligo di non avremo più parcelle fatture cartacee, ma passeremo anche a una modalità telematica, e questo potrà essere più tracciabile da un certo punto di vista, anche perché passeranno attraverso, come già avviene, attraverso dei sistemi informatici che monitoreranno anche i flussi in entrata e uscita di IVA e quant'altro. Mentre il fondo del ristoro per le banche, che cos'è? Una specie di happy hour? Che cos'è? No, perché nasce il fondo di ristoro per le banche, mi fa un po' ridere questa cosa. Già in banca fai la fila e non esci mai. No, sono misure diciamo sempre legate al fondo interbancario, e quindi di conseguenza per evitare i famosi crack, che sono, cioè non per, per aiutare anche i risparmiatori nei famosi crack che sono successi in questi anni, in cui oltre alla crisi alla crisi economica c'è stata una crisi finanziaria che ha portato però in questo caso con delle responsabilità precise da parte delle banche i risparmiatori in una situazione di difficoltà economica. No, ma e io quindi la, su questo la prendo in battuta, perché certo, insomma, chiamato in questa maniera fa un po' riflettere, no? No, perché saranno gli obbligazionisti, cioè coloro che avevano finanziato le banche, a poter attingere a questo fondo per recuperare una parte di quei soldi che sono stati purtroppo persi nell'attività delle banche che hanno investito in maniera sbagliata. La formazione a costo zero, cumulabilità del contributo, cosa vuol dire questo qua? Cioè gli straordinari benefici non finiscono qui, poiché il contributo può essere cumulato. Ecco, diciamo un'altra misura è questa, sempre legata al mondo del lavoro, è quella poter agevolare. È lì che voglio mettere la piaga, esatto, il mondo del lavoro. Le sentiamo anche oggi in campagna elettorale, quindi al di là della campagna elettorale, di cui magari potremo poi soffermarci in altro momento, come discutevamo fuori onda. Prima del blocco dobbiamo farla una. Queste sono misure, sempre nello spirito in cui abbiamo iniziato questa trasmissione, queste sono le misure che oggi esistono realmente sul piatto, quindi al di là delle chiacchiere, queste sono il prodotto dell'attività normativa che il Parlamento ha posto in essere, quindi al di là delle considerazioni esiste per il 2018 questo sgravio contributivo, una sorta di credito d'imposta fino al 40% per le aziende che investono in formazione, soprattutto in quella che viene chiamata la cosiddetta industria 4.0. Che cosa significa? Quell'industria che cerca di innovarsi attraverso i nuovi mezzi digitali e tecnologici, quindi nella formazione di persone, quindi del proprio personale, per agevolare la conoscenza degli strumenti, e anche è stata finanziata la cosiddetta legge Sabatini per l'acquisto di macchinari che possano implementare la dotazione delle aziende in termini sempre di innovazione. Quindi da questo punto di vista vengono accorpate queste misure sia per quanto riguarda il personale, quindi un credito d'imposta per chi decide di riuscire a formare il personale verso i nuovi strumenti digitali con agevolazione, quindi fino al 40%, e dall'altro pure avere la possibilità di acquistare macchinari. Nella formazione sono comprese materie tipo per esempio il management, materie che non sono legate all'impostazione classica del lavoro, infatti rimangono fuori le misure legate alla sicurezza sul lavoro e alle politiche ambientali, quindi di conseguenza l'intento del legislatore è quello di favorire la formazione di personale verso una nuova forma di lavoro, che è quella rivolta al digitale e all'innovazione. Cerchiamo di parlare un po' di tutto, anche perché il tempo è tiranno come al solito. Allora, abbiamo iniziato mi suona male, però è così, è successo il 2018, è arrivata questa bella notizia: aumenta gas, aumenta energia elettrica e cose varie, alcune misure di sostegno non previste dalla legge di bilancio 2018, ma che si possono richiedere. Quali sono? Esatto, sono sempre i cosiddetti bonus luce e gas che esistono però dal 2009. Appunto. E quindi sono una misura vecchia che possono essere nuovamente richiesti. Come abbiamo detto, non sono inseriti all'interno della legge di stabilità, ma sono misure a sostegno che possono essere richieste dai cittadini che hanno anche in questo caso un ISEE, come abbiamo detto, un indicatore di situazione economica equivalente. È stato alzato, se non sbaglio, 8.107, no? Sì, è adeguato all'Istat sostanzialmente, quindi da 7.005 per il 2016 è passato a 8.107 e anche i nuclei familiari con 3 figli a carico con ISEE non superiore ai 20.000 euro possono richiedere questo beneficio, lo possono richiedere direttamente al proprio comune o ai CAF, quindi i centri di agevolazione fiscale che sono presenti sul territorio, quindi possono accedere, possono fare la domanda e quindi all'esito dell'istruttoria poi potranno beneficiare di questo piccolo contributo che alleggerirà così le bollette energetiche che, come dicevi tu, iniziano con il nuovo anno in rialzo rispetto a quella che era la chiusura dell'anno precedente. E visto che non si calma la terra, continua a tremare, proprio ieri c'è stata un'altra forte scossa anche ad Amatrice, c'è anche il bonus, il super bonus o bonus e sisma, come si qui rientrano anche coloro che io ho letto giorni fa una notizia che la Cassazione praticamente ha dato per scontato il fatto che se a un sindaco gli viene obbligato di chiudere una scuola, anche se non è in una zona ad alto rischio di terremoto, la deve chiudere per questione di sicurezza. Rientra anche questo bonus, cioè i provvedimenti sono stati presi anche solo per i privati o anche no, a livello pubblico? In questo caso sono per i privati, sono agevolazioni che riguardano i privati e ne avevamo parlato anche in una precedente puntata di Agora in Onda durante il mese di ottobre o novembre e avevamo illustrato quelle che erano le misure per i cittadini e quindi anche indirettamente per le imprese, perché di fatto è una detrazione che, di cui possono agevolare le famiglie ma i lavori poi vengono svolti dalle imprese, certo. Quindi anche per cercare di rimettere in moto un meccanismo economico che riguarda il cosiddetto mattone, ma siccome noi abbiamo un patrimonio edilizio, come sai tu, e questa è una sentenza recente del 2018 della Corte di Cassazione che praticamente ha imposto condannato un sindaco che non ha chiuso la scuola, che mancava il certificato, il nulla osta, il certificato antisismico, quindi che è una responsabilità dell'ente locale, soprattutto nelle scuole di primarie, quelle di avere da un punto di vista normativo tutte le proprio perché il comune è proprietario certo. dell'istituto, quindi avere tutta la certificazione a norma e, come dicevamo queste misure che riguardano la casa sono state riconfermate. In particolare, per esempio, è stato riconfermato lo sgravio fino al 50% con un tetto massimo di 96.000 euro per le ristrutturazioni edilizie. Abbiamo detto riguardano lavori straordinari, ne avevamo elencato anche sì. Le caratteristiche, perché dal 1 gennaio 2018, se non fosse intervenuta questa modifica all'interno della legge di bilancio, il tetto sarebbe sceso a 48.000 euro e con una detrazione a 36.000, quindi ripeto, adesso per l'anno 2018 la detrazione per chi deciderà di ristrutturare casa sarà pari al 50% su un tetto di spesa massimo di 96.000 euro, mentre se non fosse entrata questa norma sarebbe sceso il tetto a 48.000 con una detrazione fino a 36%, quindi diciamo continuano le agevolazioni dell'anno precedente. Misure che vengono riconfermate anche e soprattutto per il sisma bonus, che invece prevedeva dal 2018 al 2023. Ci sono misure che a seconda della zona sismica e al tipo di ristrutturazione possono portare anche per i condomini a risparmi, diciamo, a detrazione fino all'85% del costo della detrazione, sempre sul limite massimo di 96.000 euro, quindi un bel, diciamo, risparmio. Il rimborso avverrà però in 10 annualità, quindi effettuati i lavori, cominciati a fare i lavori nel 2018, certo. Ci sarà un rimborso progressivo nel 7,30 su 10 anni. Oh, senti, siamo al termine, le 10 e 21 minuti primi, esco un attimino fuori dalla legge di bilancio di cui appunto ci siamo occupati stamattina. Volevo farti una domanda perché mi è tornata in mente adesso, mi hanno detto chiedila, e non sei preparato, speriamo che ne sai qualcosa. parlo delle pensioni. Allora, le pensioni, è successo che praticamente alcune persone mi hanno segnalato, ma doveva esserci una rivalutazione delle pensioni, in aumento, che qualcuno parlava di 3-4 euro d'aumento sulle pensioni in genere, e invece ho sentito dire alcune signore, perché mi trovavo alla posta, si sono lamentate perché si sono trovate 8-9 euro in meno sulla pensione. Sai niente di questa cosa? No, di questo attualmente non possiamo, non so, informarci, non so. Vedere sì, un sì, attimino. Assolutamente, su questo verificheremo, anche perché il discorso della rivalutazione, c'era stato un blocco negli anni passati che è stato dichiarato anche addirittura incostituzionale, no? Infatti. Sono state delle sentenze del 2015 che hanno imposto poi all'INPS di corrispondere nuovamente. Bravo. Per cui questo blocco visto c'erano queste signore che si aspettavano qualcosa in più, invece sono trovate dovremmo vedere se si tratta di conguagli fiscali o cioè se sono fatti dei conguagli magari a fine anno, questo andrebbe visto appurato, certo, magari non lo prepariamo, esatto. Magari la prossima volta sì, sicuramente era intenzione anche di focalizzare una puntata di Agora in Onda anche sull'aspetto delle pensioni, visto tutto quello che succede. Mi sono trovato ad entrare alla posta e tutte queste signore che si lamentavano, invece di darci i soldi ce l'hanno tolti, e chi 8, magari, chi 9, ecco, bisogna, chi 10 euro, bisogna insomma, sempre suggerisco sempre di avere magari vedere se innanzitutto questo è una cosa ripetitiva, perché potrebbe essere magari a fine anno un conguaglio fiscale che per alcuni ha portato a una riduzione dell'assegno, ma magari temporaneo, per cui questo andrebbe visto in maniera più approfondita, e magari affronteremo proprio l'argomento delle pensioni, perché è un argomento sicuramente di interesse, così come quello del lavoro per i giovani, perché certo. È altrettanto importante che ci sia la possibilità per i giovani di entrare nel mondo del lavoro, quindi queste misure effettivamente che abbiamo illustrato anche oggi, visto che lo facciamo proprio a inizio anno, potranno spero servire a tante aziende per impiegare nuovi assunti in maniera stabile, godendo delle detrazioni. Parliamo sempre di poco 80, e comunque ci sono, è vero, bisognerà fare molto di più, però intanto utilizzare gli strumenti che ci sono, che l'ordinamento ci mette a disposizione, è sicuramente un inizio piuttosto che niente. C'è questa modalità, speriamo appunto che le imprese ne possano giovare, perché assumere persone significa poi aumentare anche la qualità del lavoro e soprattutto la qualità produttiva del lavoro che viene svolto, sai, tutti i settori, per cui è importante che le aziende possano crescere anche attraverso l'ausilio di assunti che possono costituire anche loro un valore aggiunto nell'ambito delle imprese. Ne abbiamo parlato, ne continueremo a parlare anche con altri operatori, proprio perché è importante che i giovani possano entrare nel mondo del lavoro, altrimenti non ci sarà una possibilità di finanziare le pensioni. Certo, quindi, per forza. Cosiddetto tasso di sostituzione tra lavoratori e pensionati. Va bene, con questo abbiamo concluso quest'oggi con questa puntata, la 13ª di Agora in Onda. Ci risaremo venerdì prossimo. Venerdì prossimo. Sempre alla stessa ora qui su Radio Onda Libera. Da Stefano e Marco, un saluto e un buon fine settimana. Noi ci sentiamo lunedì mattina alle 7. A tutti, buon proseguimento.